un'altra Europa. 6 minuti dopo le 12, buon sabato, di nuovo da Federico Taddia in questa mattinata. Insieme ho avuto il piacere prima di sostituire Alessio Maurizia. Si può fare, ora eccoci qua, come consuetudine, con l'altra Europa, come ogni sabato, per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con Euronet Plus. Vi ricordo euronetplus.eu, il portale del network. Euronet Plus R24 invece per gli account social. Ancora radio24.it invece, dove potrete ritrovare tutti i contributi extra e scaricare il podcast della puntata. Chiocciola Federico Taddia invece per trovarmi su Facebook e Twitter, lì le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte da Cipro. Στο μύθο που γέννησε την Πάφο, η ζωή συναντά την τέχνη. Έτσι ακριβώς αρχίζει και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πάφος 2017 και το ανοιχτό εργοστάσιο πολιτισμού. Πάφος, έργο τέχνης. Μια θεαματική τελετή έναρξης. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 7 στην Πλατεία Δημαρχείου. Και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θέατρο, εκθέσεις, συναυλίες. Όλη η Πάφος θα γιορτάζει. Εσύ, είσοδος ελεύθερη. La città di Paphos, capitale europea della cultura 2017, la seconda città. Oggi si apre l'anno con la cerimonia inaugurale, ma come sempre un calendario ricchissimo, sono oltre 300 gli eventi in programma. Di tutto ciò ne parliamo con Andri Tomasidou, che lavora nell'Ente Nazionale del Turismo e vive a Paphos da qualche anno. Buongiorno Andri, benvenuta all'altra Europa. Calimera di Paphos, calimera. Allora, qual è, che clima si respira in città? C'è fermento? Sì, l'atmosfera che si respira in città oggi è bellissima. È un'atmosfera di allegria, di gioia, un profumo di felicità. Tutti, sia abitanti che ospiti di Paphos, sono contenti e felici. Una grande festa. Una grande festa oggi. Cosa succederà? Cosa c'è in programma? Allora, gli eventi hanno già cominciato dalla mattina. Abbiamo cominciato con delle visite guidate. Poi c'era musica dal vivo ai vari caffè di Paphos. C'era il maestro danese che si chiama Lars Møller, sì. È un famosissimo compositore con l'orchestra jazz di Aarhus. Continuiamo con una mostra dei dipinti che si chiama Planites, sì. Che partecipano pittori di Cipro ma anche del Mediterraneo. Certo. Alle 18 abbiamo l'introduzione con cori di tutta l'isola di Cipro e poi alle 19 c'è la grande cerimonia dell'apertura. Ricordiamo che Paphos è città portuale posta all'estremità occidentale di Cipro insieme ad Aarhus in Danimarca, le due città capitali europee della cultura 2017. Apertura è il tema scelto da Paphos. Apertura in che senso, Andre? In che senso? In senso dell'inizio di tutto quest'anno pieno degli eventi. Oggi il tema dell'apertura, sì, è il mito di Pigmalione e Galatia. Sì. Volete sapere la storia del mito? Ma sì, dai, sinteticamente, però è una bella storia, raccontacela. Sì. Allora, secondo la mitologia, Pigmalione fu un famoso scultore nell'antichità. Sì. Colpì nel suo palazzo una statua femminile di avorio, che era così bella che se ne innamorò. Approvvise per compassione di lui e diede vita alla statua. Pigmalione sposò a Galatia e dal matrimonio nacque un figlio, a Paphos. Mm-hmm. Paphos fondò una città con il suo nome e la dedicò alla dea Afrodite. Questo è il mito che vedremo stasera in uno spettacolo musicale, danzante e teatrale in connessione con le nuove tecnologie. Quindi insomma l'antichità è la, che abbraccia la modernità. Sì. Ma il mito, certo. Andri, ma Paphos che città è oggi? Paphos è una moderna città che adesso è trasformata dalla cultura. È piuttosto una città così turistica. Sì. C'è diciamo la zona turistica, il Paphos di sotto, e poi c'è il centro storico, dove ci saranno tutti gli eventi stasera. È una città di quanti abitanti? 88.000 abitanti. Okay, una piccola città, sì. Una piccola città, ma insomma molto bella, e con un ricco programma per questo anno della cultura, dove ovviamente la mitologia è al centro, ma non solo, perché vi consiglio di andare a visitare il sito che è paphos2017.eu e vi insomma renderete conto della ricchezza sia del calendario, sì, sia della città. turismocipro.it invece per avere maggiori informazioni anche dal punto di vista turistico. Grazie Andri, buona... Prego, vi invitiamo tutti a Cipro, a Paphos, all'estremità occidentale di Cipro, all'estremità orientale dell'Europa. Il programma è molto ricco, è infinito, e vi aspettiamo tutti a Paphos. Tu come mai parli italiano? hai vissuto in Italia o...? Sì, solo per un anno sono stata in Italia e ho studiato per un master a Roma. Ok, quindi insomma, hai acquisito la lingua e insomma l'hai tenuta anche ben allenata. Ciao Andri, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao. Noi adesso ci fermiamo e diamo le informazioni del traffico. Prima, come sempre, un Europost-it e poi ancora qua con l'altra Europa parleremo delle vie di Leonardo da Vinci, perché l'itinerario che ha contrassegnato la sua vita è stato proposto come itinerario culturale europeo. A fra pochissimo. Europost-it. CU Sound International Music Film Festival. A tutti gli appassionati di musica e cinema. A Torino dal 27 gennaio al 4 febbraio torna CU Sound International Music Film Festival, rassegna dedicata all'incontro tra cinema e musica. Sottotitolo dell'edizione 2017 che porterà a Torino uno sfaccettato universo di lungometraggi, cortometraggi, documentari e videoclip è Music Comes Alive, la musica rende vivi. Oltre alla competizione principale dedicata ai lungometraggi, cortometraggi e videoclip, il festival prevede due rassegne internazionali fuori concorso. La prima, intitolata Into the Groove, con 6 storie di musica che cambia la vita. E la seconda, intitolata Trans Global Express, con 6 film sulla scoperta di nuovi paesaggi sonori. Informazioni e programma sul sito cusound.org. L'altra Europa. Travalicare i confini, travalicare le culture, travalicare i paesaggi, i monti, le nazioni per contaminare. Questa è un po' la missione degli itinerari culturali europei promossi dal Consiglio d'Europa, itinerari di cui abbiamo parlato più volte, sono 29 mi pare attualmente quelli ufficiali. Ne è però stato proposto uno nuovo che vede proprio Leonardo da Vinci come grande protagonista, come moderno europeo. Ne parliamo con Patrizia Vezzosi, architetto e responsabile del progetto. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Allora, Leonardo da Vinci, innovatore anche del pensiero europeo? Ma certo, questa per me è un'esperienza veramente fantastica, è molto, molto stimolante, molto impegnativa, molto stimolante, perché appunto il personaggio di per sé ha una valenza mondiale, quindi sicuramente stimolante, emozionante e una grande anche responsabilità. Certo, allora intanto diamo una sorta di metratura a questo itinerario, quali sarebbero le nazioni coinvolte? Allora, al momento sono 15 le nazioni coinvolte. Noi abbiamo realizzato alcune mappe appunto per chiarire quali sono, diciamo, le località, le tappe che Leonardo ha toccato durante la sua vita, e l'altro aspetto che ci interessa è la collocazione delle opere, la collocazione delle sue opere attualmente. E quindi un itinerario che segue le se sue vuole, opere per... l'elenco è lungo, no. Comunque sono 15 nazioni, sono l'Austria, Città del Vaticano, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Scozia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria. Quindi queste, insomma, questo è diciamo solo l'inizio. Queste sono, noi intendiamo poi sviluppare, diciamo, la ricerca anche, quindi estendere tutto l'itinerario a livello europeo e anche oltre, se pensiamo che di estendere anche il lavoro alla ricerca ai leonardismi, cioè alle influenze di Leonardo sull'arte, diciamo, contemporanea. Ovviamente. Per quanto però ha detto all'inizio, vorrei precisare una cosa. Sì. Intanto gli itinerari ad oggi riconosciuti, certificati dal Consiglio d'Europa sono 32. Ok, ne avevo perso un paio. Sono 32 e il primo è stato naturalmente il Cammino di Santiago, certo. Riconosciuto, certificato il 23 ottobre del 1987, quindi quest'anno 2017 ricorre proprio il trentesimo anniversario della creazione del forum, anche del programma degli itinerari culturali europei, no? Quindi, e sarà celebrato questo trentesimo anniversario al forum consultivo annuale che quest'anno si terrà a Lucca dal 27 al 29 settembre. Benissimo. Ecco questo. Poi l'altra cosa che volevo precisare, noi non siamo ancora un itinerario. No, certo, è una proposta, giusto? Siamo in fase progettuale, siamo un progetto di itinerario culturale del Consiglio d'Europa, ecco. E quali sono adesso i prossimi passaggi? Che tempi vi siete dati per avere una sorta di, appunto, ufficializzazione del progetto, dell'itinerario? Ah, ma dunque, ci sono dei passaggi che sono, come dire, prestabiliti, c'è un quadro, diciamo, di riferimento formale che è la normativa precisa, una risoluzione 67 del 2013, quindi rappresenta un quadro formale di riferimento per tutti, per il programma, diciamo, di tutti gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Quindi noi abbiamo intanto individuato un tema che è conforme ai valori del Consiglio d'Europa e quindi stiamo, appunto, come dicevo, identificando anche tutti gli elementi del patrimonio. Certo. Creando una vera e propria banca dati e mappe originali. Dopodiché, e questa è la sfida, insomma, un po' per tutti gli itinerari che si vogliono costituire, c'è la fase della creazione dell'associazione europea, un'associazione europea con personalità giuridica, con almeno tre stati. E, ad oggi sono stati appunto avviati contatti con paesi, alcuni stati dove Leonardo ha trascorso dei periodi, e quindi sicuramente con la Francia, quindi con Amboise, sì, dove è morto Leonardo, e con la Slovenia, dove ha trascorso un periodo della sua vita. Però sono stati avviati anche altri contatti con la Svizzera e con Città del Vaticano. Chiaro. Poi attualmente la fase successiva è quella di realizzare, condividere insieme all'interno di questa associazione europea con personalità giuridica delle azioni comuni e in un progetto, in progetti diciamo triennali che siano veramente innovativi finanziariamente e organizzativamente praticabili, e poi ovviamente dare la visibilità, avere una visibilità comune. Per noi insomma è molto importante in prospettiva delle celebrazioni che ci saranno nel 2019. Assolutamente. E, naturalmente sarà un evento di portata mondiale. Sì, quindi è la vetrina migliore per poter eventualmente inaugurare questo itinerario. Grazie a Patrizia Vezzosi, sicuramente continueremo a seguire il progetto, quindi ci ritroveremo qui all'Altra Europa. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata anche a voi. I invented the first method for screening chemicals and water quality using fluorescent tadpoles that light up if their water is polluted. The new Open Science platform, a digital highway for scientific articles. And the great thing is, it's open and free for everyone in the world. E da un genio, da un innovatore come Leonardo da Vinci, passiamo alle donne innovatrici. Sono state annunciati i nomi delle 12 imprenditrici di successo tra le candidate del premio promosso ogni anno dall'Unione Europea. 12 nomi, da qualche anno mancava un nome italiano, quest'anno invece c'è. Diamo il benvenuto a Mary Francese. Buongiorno Mary. Buongiorno Federico. Buongiorno, complimenti intanto per essere entrata in questa selezione d'eccellenza. Neuron Guard è l'azienda in cui lavori, che hai cofondato. Adesso ci spieghi bene qual è lo stato dell'opera. Intanto, qual è stata la prima soddisfazione quando hai saputo di essere stata inserita in questa bella dozzina? Io l'ho saputo prima di dicembre, cioè il periodo di Natale, e quando ho letto l'email non vi nascondo che l'ho riletta 3 volte. Perché era un'informazione appunto confidenziale, non ci credevo, perché per la prima volta quest'anno il premio ha dato la possibilità di iscriversi anche a donne che hanno cofondato delle aziende, e quindi ho colto al volo questa occasione. Certo, insomma, quindi meraviglia, stupore, però anche soddisfazione e anche certificazione di fatto del lavoro che stai e state facendo. Che cos'è Neuron Guard? Neuron Guard è una startup innovativa che è nata nel 2013 da un'idea di Enrico Giuliani, e sta sviluppando un dispositivo medico per il trattamento sul luogo dell'evento di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. Il dispositivo si compone di 2 parti, un collare e un'unità di controllo. Il collare refrigerante serve appunto per fare ipotermia terapeutica sul luogo dell'evento, ovvero riduzione della temperatura al di sotto dei 37 gradi centigradi, così appunto da bloccare la morte dei neuroni in caso di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. L'innovazione e il valore aggiunto sta nel fatto che il collare è collegato a un'unità di controllo esterna che serve appunto per raccogliere tutti i dati del trattamento, trasmetterli all'Emergency Response System e consentire appunto il trattamento dal luogo dell'evento in continuità anche in ospedale. Perché quello che rende particolarmente innovativo della nostra soluzione è il fatto di voler diventare il defibrillatore automatico per i danni acuti, per cui posizionarci in tutti i luoghi pubblici così da consentire al personale medico e laico di intervenire prontamente. Innovatrice del futuro tra le imprenditrici under 30, questa è la categoria dove sei stata selezionata. In cosa tu come persona ti senti innovatrice? Dov'è il valore aggiunto che ti ha permesso appunto di arrivare a questo traguardo? Avendo cofondato Neuron Guard e non avendo avuto io l'idea, penso che ciò che mi ha resa tra le finaliste è l'aver saputo comunicare l'innovazione attraverso i diversi canali, ma anche il premio dà molta importanza anche alla posizione delle donne, al modo in cui le donne decidono di portare avanti le loro idee. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ha messo al servizio il suo sapere mi ha arruolata all'interno del suo team e mi ha dato la possibilità di raccontare la nostra storia. Per cui questo è ciò che secondo me mi ha portata lì in Europa dopo 6 anni dall'ultima proclamazione di una donna italiana. Quindi donna italiana, giovane, capace, hai avuto fiducia, hai avuto tu fiducia in te stessa, ma c'è chi ha avuto fiducia in te, e questo, come hai raccontato, sono stati due incentivi, due motori. Sono qualità comuni che hai trovato anche nelle altre donne che con te sono state candidate? Ho trovato molta determinazione, quello sicuramente. Ho trovato molta determinazione, tenacia, coraggio, soprattutto nelle donne imprenditrici, quelle che sono tra le finaliste, le 9 finaliste del premio delle innovatrici che hanno un'età superiore ai 30 anni. C'è stata qualcuna che ha avuto qualche difficoltà, perché solitamente le donne hanno a volte anche il timore di mostrarsi in pubblico. Però la tenacia e il coraggio, quando si ha un'idea innovativa e questa idea vuole essere portata avanti, vengono abbattute e si va avanti. Finanziato nell'ambito di Horizon 2020, questo premio, per te Mary, come imprenditrice, come donna, come innovatrice, l'Europa cosa rappresenta e cosa ha rappresentato? L'Europa per noi ha rappresentato un'occasione unica, perché noi abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della regione Emilia-Romagna, perché siamo di base a Modena, sì. Ha rappresentato soprattutto l'occasione per dare avvio alla nostra impresa. Siamo nati nel 2013 e questo contributo è stato il primo ad arrivare e ci ha dato una certa un sostegno e la possibilità di portare avanti la nostra idea. In futuro vogliamo sfruttare quanto più possibile questi finanziamenti, appunto per creare il network giusto sia da un punto di vista della ricerca che da un punto di vista finanziario. Neuronguard.com per tutte le informazioni. Complimenti Mary intanto per questo traguardo raggiunto, poi la strada è ancora lunga, ma sento che gli stimoli non mancano. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie mille, altrettanto. Noi ora ci fermiamo, un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Master, progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale. Sei interessato alla progettazione europea? Ti piacerebbe intraprendere un corso di studi dedicato ad accesso e utilizzo di fondi comunitari? L'Università degli Studi di Perugia e il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo organizzano un master di primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale. Il programma del master si concentrerà sulle competenze teoriche e tecnico-gestionali legate alla progettazione e all'accesso ai fondi europei, con un focus specifico sui settori culturali e creativi. Sede delle lezioni sarà la città di Perugia, dove per 12 mesi gli studenti frequenteranno le lezioni durante i weekend per un totale di 300 ore di didattica, alle quali si aggiungeranno 400 ore di tirocinio sul campo. Tutte le informazioni sul sito dell'Università di Perugia, unipg.it/didattica. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo I Mesi della Prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno allora dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. L'altra Europa. I feel your pillowcase, all with snakes, the man eating kind. Though you call yourself a woman, I doubt it, they were mine. Oh my, oh, oh my. There's just one problem with my plan. You spend your nights with another man. Oh, you don't rest your head with mine no more. I gotta take my plug back to the drawing board. Oh my, oh, oh my, oh my, my, ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, per i vostri messaggi e per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando oggi. Tanti progetti europei con donne e scienza protagoniste, ci piace tutto ciò. Il prossimo progetto riguarda l'insegnamento di aritmetica e geometria, in particolare una nuova pedagogia, una nuova metodologia per l'insegnamento multisensoriale. Questo è al centro di un progetto europeo, si chiama WeDraw, e vede come capofila l'Istituto Italiano di Tecnologia e in particolare il gruppo di lavoro di Monica Gori, che è qua con noi. Buongiorno Monica, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Un progetto importante con un cofinanziamento da parte dell'Unione Europea di circa 2 milioni e mezzo di euro nell'ambito di Horizon 2020, un progetto della durata di 2 anni, tanti partner, voi come capofila. In cosa consiste? Allora, il progetto WeDraw parte dall'idea che studi che abbiamo fatto negli anni passati dimostrano che fino a 8-10 anni di età i bambini non mettono insieme informazioni che provengono da più modalità sensoriali, ma ne usano solo una alla volta. E la modalità sensoriale che usano non è sempre quella visiva, ma dipende dal tipo di compito che devono fare. Proprio partendo da questi risultati scientifici ci siamo chiesti se quindi fosse possibile applicare questa conoscenza all'insegnamento, che principalmente si basa su modalità sensoriale visiva. La nostra idea è quella di dare, di fornire agli insegnanti, partendo proprio coinvolgendoli in questo processo, uno strumento per poter valutare ogni bambino quale sia la modalità sensoriale, visiva, uditiva o motoria, tattile, che preferisce per imparare uno specifico concetto, così che per lui sia possibile capire alcuni concetti matematici e geometrici sfruttando la modalità sensoriale che è quella preferenziale per lui. L'insegnante sarà al centro del processo e ogni bambino esplorerà un concetto in modo appunto unisensoriale attraverso la visione, un ritmo o il tatto, e l'insegnante poi permetterà di incontrare tutte queste esperienze in un percetto finale multisensoriale del concetto specifico matematico di geometria. Stiamo parlando di musica, di danza, di pittura, ma stiamo parlando anche di nuove tecnologie? Parliamo anche di nuove tecnologie, tecnologie che dovrebbero sfruttare proprio questi concetti associando appunto la musica, l'aritmetica e l'arte alla geometria. Noi vorremmo svilupperemo nei prossimi anni una piattaforma da tavolo che darà dei feedback aptici proprio all'Istituto di Tecnologia, e poi con altre collaborazioni in Italia con l'Università di Genova, con Gualtiero Volpe che ha scritto con quel progetto, e con l'Università di Londra, verranno sviluppate delle piattaforme dove il bambino liberamente si potrà muovere e fare esperienza attraverso la musica e l'arte, proprio di feedback sonori, visivi, uditivi, come per esempio la sonificazione del movimento. E più ci sono appunto due ditte coinvolte che prenderanno parte nello sviluppo di Sirius Games, che quindi arriveranno direttamente su tablet per appunto bambini direttamente a scuola. Quindi varie tecnologie che verranno sviluppate sulla base di input che verranno dati dai pedagogisti, sì, che sono coinvolti, moltissimi workshop con gli insegnanti che saranno principalmente guidati appunto dai pedagogisti in collaborazione con la D'Agostini scuola, e anche però con insegnanti di per esempio bambini con disabilità, per esempio con bambini con disabilità visiva, in collaborazione con il Chiostone di Genova. Naturalmente questo nuovo approccio multisensoriale abbatterà le barriere, perché permetterà al bambino con disabilità o al bambino senza disabilità di fare la stessa esperienza, per esempio uditiva di un concetto o tattile, senza differenziare il tipo di insegnamento sulla base delle capacità del bambino stesso. Quindi insomma mi sembra un approccio di sistema, quindi i bambini coinvolti ma anche gli insegnanti, ma anche l'ambiente, sì, che dovrà essere in parte modificato per accogliere questa nuova metodologia. Nei prossimi mesi entrerete nelle scuole e inizierete le prime fasi di sperimentazione con gli alunni, giusto? Assolutamente, abbiamo già coinvolto 4 scuole di Genova che sono nello stakeholder panel di progetto. Ne coinvolgeremo altre, ce ne sono altre coinvolte in Inghilterra e in Irlanda, e stiamo considerando di coinvolgere più di 400-500 bambini nella valutazione della tecnologia del progetto. Monica Gori, buon lavoro. www.iit.it, Istituto Italiano di Tecnologia, per tutte le informazioni. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata. Europost-it. Tirocinio a ESO. Sei un aspirante giornalista e sei alla ricerca di un'esperienza internazionale? Allora attenzione, perché ESO, Osservatorio Europeo Astrale, offre un tirocinio retribuito a giovani giornalisti interessati alla divulgazione scientifica. ESO è un'organizzazione astronomica internazionale composta di 16 nazioni che fornisce agli astronomi strumenti all'avanguardia e materiale di ricerca prodotto anche attraverso un approccio multimediale, creando documentazione di alta qualità come opuscoli, libri, relazioni annuali e newsletter. Il tirocinio durerà dai 3 ai 6 mesi e avrà sede a Monaco. Potrai trovare l'elenco dei requisiti richiesti, le modalità di candidatura e tutte le informazioni su ESO all'indirizzo recruitment.eso.org. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Un altro progetto, un progetto che travalica i confini europei, si chiama Ubora, un progetto finanziato con 1 milione di euro che punta alla creazione di una piattaforma virtuale tra Europa e Africa, dove i bioingegneri dei due continenti potranno condividere know-how e risorse. Il progetto si chiama Ubora, ne parliamo con Arti Alu Ualia, docente del Centro di Ricerca Enrico Piaggio dell'Università di Pisa e coordinatrice del progetto. Benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Allora, che cos'è Ubora? Di cosa si tratta? Allora, Ubora fa parte della call InfraSAP, per la creazione di infrastrutture. E in particolare questa è un'infrastruttura virtuale, cioè un'infrastruttura sull'internet, e essenzialmente è un nuovo metodo che stiamo creando per la realizzazione di dispositivi biomedicali basato sulla condivisione, cioè essenzialmente la condivisione di disegni, progetti e requisiti essenziali per garantire l'efficacia e sicurezza dei pazienti. Mm-hmm. Questo è per condividere studi, ricerche, conoscenze tra i due continenti. Esatto, cioè per condividere un metodo per creare dispositivi biomedicali, perché attualmente vengono create, diciamo, dietro porte chiuse. Ogni azienda fa per sé e non vengono condivisi, diciamo, per esempio i dati sul performance e sulla sicurezza di questi dispositivi. Invece quello che vogliamo fare con questa nuova piattaforma e questo nuovo metodo è di dare un impetus alla innovazione e la co-creazione di dispositivi. Cosa significa Ubora? Allora, come l'ha già detto, significa eccellenza o qualità in Swahili. Infatti, con questo nuovo metodo, quello che stiamo cercando di fare è promuovere una buona qualità di dispositivi biomedicali sul continente africano, perché attualmente non hanno, diciamo, una legislazione coerente in tutti i paesi, per cui non ci sono requisiti armonizzati tra i paesi, per cui non possono vendere prodotti agli altri, né noi possiamo accettare prodotti manufatturati in Africa. Certo, quindi condividere eccellenze per avere prodotti di qualità. Questa è la missione di Ubora. Tanti gli enti, tante le nazioni, tante le istituzioni coinvolte. centropiaggio.unip.it per tutte le informazioni. Ringraziamo Arti Alu Ualia e buon lavoro, perché insomma credo che sia molto stimolante. Grazie, sì, il progetto è appena iniziato. Infatti, insomma, le difficoltà immagino non mancano, però ci sono tante risorse e mi sembra tante strade declinabili, quindi sicuramente ci sarà da lavorare. Grazie, buona giornata. Grazie, buongiorno. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Inna. Schleicht durchs Ghetto, schwarz und stumm, schlaf ein, vergiss nun alles ringsum, schmieg fest dein Köpfchen in meinen Arm, bei Mutter schläft sich's ruhig und warm. Schlaf, über Nacht kann vieles geschehen, über Nacht kann aller Kummer vergehen. 27 gennaio, ieri, come ben sapete, è la giornata della memoria, e anche noi a nostro modo vogliamo celebrarla in chiave europea. Lo facciamo con l'ebraista e scrittore Matteo Coradini, a cui diamo il ben ritrovato qui all'Altra Europa. Matteo, riconosci questa musica? La riconosco, sì. Sono quelle musiche che ti entrano nel cuore e poi si fermano lì, non escono più. Ricordaci che melodia è. Sono delle melodie che vengono dal ghetto di Terezin e sono delle canzoni scritte in una situazione difficilissima e nella quale la musica e le parole avevano un'importanza molto più forte rispetto a quella che magari diamo noi oggi e adesso. E la musica e le parole servivano per resistere. Musica e parole, dove la musica è un ritmo anche di scrittura per resistere, anche il cuore del diario di Anna Frank, che insomma ben conosciamo essendo una testimonianza unica della tragedia dell'Olocausto. È appena stato pubblicato per Burr Rizzoli il nuovo diario di Anna Frank, a cura proprio di Matteo Coradini. Un lavoro intenso, un lavoro fatto col testa e cuore, un lavoro che ti ha portato a riscoprire Anna Frank. Che lavoro avete fatto, Matteo? È stato un lavoro davvero europeo da certi punti di vista. Ero in collegamento costante con la bravissima traduttrice di questa nuova edizione, che si chiama Daphna Fiano, che vive ad Amsterdam, ha sposato un olandese e lei è la nipotina di Nedo Fiano, ex deportato nel lager di Auschwitz. E io e lei abbiamo fatto un lavoro intensissimo per un anno intero proprio sulle parole di Anne Frank, che continuamente erano da riscoprire, da rispolverare in qualche modo. E il nostro lavoro per certi versi era anche un po' quello di scomparire, e dovevamo fare in modo che uscisse solo e soltanto la luce delle parole di Anne Frank. Tu sei un esperto anche in didattica della memoria. Memoria ed Europa, qual è la connessione strettissima che li lega? La connessione strettissima credo che sia questa, che al di là delle lingue e delle tradizioni, che sono oggettivamente diverse, anche in campo ebraico, gli ebrei polacchi avevano lingua e tradizioni molto, molto, molto distanti per certi versi dagli ebrei olandesi. Eppure questa Shoah ha accomunato tutti dalla medesima esperienza di dolore, dalla medesima esperienza di silenzio, dalla medesima esperienza di solitudine. E da questa esperienza l'Europa ne è uscita trasformata e c'è evidentemente qualcosa che ci accomuna al di là delle apparenze, che sono poi le lingue, il nostro aspetto, c'è qualcosa che ci accomuna e questa Shoah ce lo dimostra. Contro il dolore ognuno in posti diversi dell'Europa ha provato a combattere in un modo originale, ma in un modo, ahimè, sempre molto simile. E questo dolore credo ci unirà e ci ha uniti. Matteo, in alcune interviste hai detto Anne Frank è una ragazza europea contemporanea. Cosa significa? Lei è un'ebrea tedesca di nascita, ma parla benissimo l'olandese perché è cresciuta in Olanda e la maggior parte dei suoi anni li passa in Olanda. Impara il francese anche nel nascondiglio, mentre tutto sta precipitando, lei sta imparando il francese. Conosce un pochino l'inglese perché ascolta Radio Londra. È una ragazza quindi che mastica perlomeno quattro lingue. E in più la sua concezione di nazionalità è una concezione senza confini. Lei non parla mai di ebrei tedeschi, di ebrei olandesi, lei parla sempre di ebrei. Lei non parla mai di gente olandese o di gente tedesca, parla sempre di persone. Ha un'idea di un'Europa nella quale i confini non esistono, proprio perché non devono esistere tra le persone. Avete fatto un lavoro scomparendo, come hai detto prima, sulle parole per ritrovarle, ripulirle, rispolverarle, trovare le assonanze contemporanee. Ed è uscita anche tutta l'ironia di Anne Frank. Era comunque una ragazza ironica. Moltissimo. Avevo un'ironia molto sottile. Faccio un esempio. C'è un episodio nel quale Margot, la sorella di Anne, rovescia dell'acqua sui fogli scritti di Anne. Anne a quel punto è talmente arrabbiata che dice: ero così furiosa che mi sono messa a litigare in tedesco. E evidentemente la lingua olandese non bastava per litigare, e quindi qui entriamo forse in un luogo comune, ma il tedesco probabilmente è una lingua migliore se devi litigare con qualcuno, e Anne Frank lo sapeva. Prima parlavamo della musicalità anche delle parole di Anne Frank. Ci sono delle filastrocche all'interno del diario? Ci sono molte filastrocche perché per tradizione gli olandesi, ancora oggi, fanno accompagnare i regali con una piccola filastrocca, e quindi anche il regalo più banale, una cravatta, un profumo, diventa speciale proprio perché è accompagnato da quattro righe di filastrocca. Anne Frank ne riporta diverse, alcune le ha scritte lei, alcune le trascrive da giornali o alcune sono filastrocche che a lei vengono regalate insieme ad altri regali. Sono molto divertenti. Noi con non poco sforzo le abbiamo tradotte rispettando la metrica, rispettando lo stile di Anne Frank, e quindi è pericoloso dirlo naturalmente, però il diario di Anne Frank ha tanti punti nei quali vince il divertimento. È ovvio, noi leggiamo questo divertimento col senno di poi e lo leggiamo con molta tristezza e anche con molta angoscia, però per Anne Frank questo divertimento serviva in qualche modo anche per resistere. Matteo, cosa ti ha lasciato questo anno di quotidiano intenso lavoro? Se posso occuparti un'oretta di programma posso cominciare a raccontarti alcune cose. Se devo dirne alcune, Anne Frank ti cambia perché ti fa vedere negli occhi delle persone di oggi lei stessa. Lei era bianca, europea, acculturata, di buona famiglia, e per certi versi noi oggi facciamo poca fatica a ricordare e a difendere Anne Frank. Eppure ci sono tante Anne Frank che non sono bianche, non sono europee, non sono acculturate, non sono di buona famiglia e che vivono però le stesse cose. Se c'è una cosa che Anne Frank ci dice è di non salvare Anne Frank, ma di salvare chi oggi è come Anne Frank. E questo è il significato intimo della memoria. Grazie davvero a Matteo Corradini, come sempre. Grazie a te. Complimenti per il lavoro. Anne Frank, il diario, edito da Rizzoli. Con questa presentazione chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Grazie a Claudia Schiattone in assistenza, Paolo Corleone alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata dall'altra parte del vetro, ridono perché come sempre ho incrociato nome e cognome. E l'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo. L'Altra Europa @radio24.it se volete contattare la redazione, oppure come sempre potete trovarmi sui social, l'account lo conoscete, è @FedericoTaddia. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.